ad alta voce. Monica De Muru legge L'Iguana di Anna Maria Ortese. Mai più. Se egli avesse potuto pensare a qualcosa che non era l'isola di Ocagna, se la sua mente si fosse ricordata di un calendario, il conte avrebbe creduto che oltre quel cielo e quel mare così fermi e smorti divampasse la primavera. Avrebbe pensato piuttosto che alla primavera, a una prima pace autunnale, quando l'incendio del cielo è scomparso in una notte dopo molta luna e l'indomani è freddo e buio. Non era in verità né proprio freddo né proprio buio in modo assoluto, tutt'altro. Ma quell'aria pungente che segue le prime piogge e quel cielo più simile al fondale di un teatro dove non si recita più nulla che ha una volta d'aria. Come vestiti di velo, lacerati dal tempo e da un qualche male che aveva afflitto la proprietaria, pendevano dagli uncini del cielo migliaia di forme, il cui tono predominante erano il grigio e il giallo, e questo mescolato al colore della tortora, con qualche smerlatura di verde. Nel mare invece non vi era alcuna luce, tranne, verso il lontano orizzonte, un riflesso plumbeo. Vicino alla riva dove il conte vogava era bruno come terra. I remi facevano fatica ad entrare ed uscire dall'acqua e uscendone brillavano debolmente, riflettendo sul legno bagnato quella incerta oscurità, quel giallore. L'isola, mentre la barca vi si accostava, sembrava ora completamente disabitata. Se non fosse che le querce, inquietate da un invisibile vento, da rosse, erano diventate nere e poi, a tratti, ancora rosse, come se stessero bruciando. Delle voci provenienti da qualcuno che un rialzo della spiaggia gli nascondeva e che poi si mescolarono a una canzonaccia, facevano, col loro tono più che allegro, sfrontato, uno strano contrasto con quella nobile e dolce agonia della terra e del cielo. Erano i fratelli Avaredo, che di lì a qualche momento apparvero al conte, intenti con certe corde a legare un mobile che la immensità dell'orizzonte faceva piccolo come una scatola di fiammiferi e che poi si conobbe da un'anta adorna di un lungo specchio nel quale si rifletteva l'obliquo mare essere un armadio. Sulla spiaggia, sotto le querce, stavano già legate insieme con una cordicella quattro sedie e il tavolo della sala da mangiare. Nello specchio, riflettendosi mare e cielo, l'uno scuro come ferro e l'altro più chiaro, sembrava aprirsi una gran luce che procurò una improvvisa serenità al conte. Essi se ne vanno. Dunque tutto si è aggiustato, si disse fra sé il giovane. E che cosa si fosse aggiustato non era, da un punto di vista strettamente logico, molto valutabile. Ma il conte, già lo dicemmo, era distratto molto quella mattina ed agiva come qualcuno che, similmente al mare, giunge ad ogni secondo da grandi distanze. Passando con la sua barca davanti ai fratelli, non li vide o non fu veduto. Per cui, disceso dalla Luisina e spinta l'imbarcazione dove l'acqua era bassa, si inoltrò sulla spiaggia verso la casa, senza essere notato. Arrivato davanti al fabbricato e alzando gli occhi alla torretta della biblioteca, ne dedusse, vedendo un lume acceso, che il marchese, intento a ricopiare o correggere i manoscritti, non desiderasse essere disturbato e risolse perciò di recarsi per prima cosa in cucina, in cerca della iguana, volendo avere con lei un tentativo di spiegazione circa il mistero che a tutti era chiaro, eccetto che a lui, e anche una qualche idea di ciò che alla servetta sarebbe stato più caro di fare, se seguirlo a Milano nel pomeriggio come lui più avrebbe desiderato, o accettare che egli, il Daddo, rimanesse a servizio di lei nell'isola, che tanto la canzone di Manrique aveva lavorato nel cuore dell'uomo. Ma qui l'iguana non vide. I piatti e le tazze della prima colazione ancora sporchi nell'acquaio dicevano che la servetta, probabilmente in sospetto di qualche cosa, non aveva fatto i suoi doveri e pensò che se ne stava offesa e preoccupata chiusa nel suo locale. Andò dunque alla botola, l'aperse e discese giù. Ma la luce della pila, muovendosi intorno, non trovò che un ordine ancora più misero dell'usuale e reso angoscioso dal fatto che quei sacchi che fungevano da giaciglio nel fondo erano stati levati e giacevano ammucchiati sotto la scala, al modo in cui, quando una persona muore, vengono sbarazzate e messe via materasse e lenzuola. Anche i denari, ben due sacchetti, giacevano ai piedi della scala, intorno a un fazzoletto che li aveva contenuti, con l'aria di essere stati buttati giù dall'apertura come un fardello improvvisamente troppo ingombrante, e ciò gli parve un cattivo segno. Se il letto era stato levato e nello stesso tempo non erano stati prelevati i risparmi, ciò poteva significare che era venuto un ordine di sgombero, e così improvviso che la creatura aveva abbandonato sul luogo i suoi averi. Come oppresso e rimproverandosi di aver perduto tanto tempo in parole vane, intimidito anche dalla nuova soggezione che gli faceva la creatura, che pure gli era cara, egli voleva chiamarla e insieme temeva. Alla fine gridò: «Iguana! Iguana!» Una strana iguana. Il colloquio. La Vergine non vuole. In sala. Nulla gli rispose, se non che dopo un momento gli parve di udire un rumore soffocato proveniente dall'alto, da quella botola, cioè, corrispondente all'armadio della propria stanza, il medesimo rumore di pianto, i «no, no», che lo avevano ferito il giorno prima, e arrampicatosi su, con un giusto presentimento, la vide. Ma non sembrava spaventata, era tranquilla, con un fazzoletto intorno al capo e più volte girato intorno al collo, una immensa scopa grigia tra le manine trascinava la medesima cupamente attraverso la stanza dell'ospite, senza, il conte lo vide chiaramente, pulire alcunché, anzi insudiciando come per dispetto. E nei suoi occhietti, ora asciutti, c'era una strana fissità. Il primo impulso del conte fu di andarle vicino e abbracciarla, dicendole ciò che per essa intendeva fare, che d'ora in avanti poteva considerarlo suo servo e babbo, e avrebbe portato il suo nome e avuto tutti i suoi denari. Ma poi, osservandola meglio, qualcosa glielo impedì. Ebbe l'impressione, dal grosso fazzoletto, il fare svogliato, quel modo di trascinare la scopa a dispetto, sporcando più che pulendo, che la creatura stesse meditando di ottenere con qualche inganno ciò che lui spontaneamente le avrebbe dato, suscitando con mezzucci la sua compassione. E gli sarebbe venuto da ridere in altro momento, ma ora, per quanto stava meditando circa il modo di rieducarla e trarla dalla sua già notevole corruzione, si irrigidì e «Senti, stai facendo più polvere che altro», disse. «Si può sapere chi ti ha insegnato a spazzare in questo modo? Meglio non farlo». E la voce che diceva queste parole era fredda e impersonale, ma gli occhi fissavano la creatura con un che di strano di timido. L'iguana, come fanno i servi stanchi o i fanciulli irritati, mostrò di ignorarla e continuò a trascinare la spazzatura col suo fare incerto e disordinato qua e là. Allora il conte le andò vicino e le tolse dalle manine la scopa. La gettò via, anzi, dicendole con voce tremante che mai più doveva toccare una cosa simile. Poiché non sopportava il suo sguardo fisso e incantato e volendo svegliarla, la prese per una spalla e accompagnò vicino al tavolo. Qui depose i suoi pacchetti di denaro autentico e aperse il più grande, dove era lo smeraldo. Vide negli occhi della bestia un brillio, una dolcezza, che sparvero subito, ma gli fecero intendere come il valore monetario non le fosse del tutto sconosciuto, e anche di ciò bisogna assicurarla. Ma ora voleva vederla sorridere. «Prendile, su, coraggio!» E un po' le guidava la manina, sorpreso che fosse tanto fredda. «Sono miei?» fece l'iguana. «Certo!» «Anche la pietra?» «Tutto!» Essa, dopo una breve esitazione, prese il tutto con le manine a coppa e depose il regalo in una tasca sdrucita del grembiale. Ma non come la mattina avanti si profuse in quei «grazie, grazie» e «no para mi, no para mi» che tanta dolcezza avevano recato al conte. Sembrava sì, questa volta, che egli le avesse messo in mano un pugno di sabbia. «Sei contenta? Con questo ti potrai comprare...» Stava per soggiungere qualcosa quando, in un movimento che fece l'essere, il suo fazzoletto si aperse e il conte vide che il collo della creatura, un collo per la verità esile e grigio, presentava dei brutti segni. E questo particolare e la sua trasognata stanchezza gli fecero pensare che qualche cosa di serio era accaduto durante la sua assenza. Per cui, posando in fretta l'altro pacchetto che aveva già scartato, mise una mano sul capo della creatura, ma questa, come dolendosi tutta, si ritrasse e aveva chiuso un occhio mentre con l'altro guardava su, però non al conte. «Che hai, si può sapere? Ti sei fatta male?» chiese con ansia Leardo. Nessuna risposta. Poi un «Sono raffreddata, oh signor», la cui palese mendacia era corretta solo dalla sua insensatezza, tipica dei fanciulli, così incapaci fino a una certa età di senso del ridicolo. «Iguana», disse il conte. Non voleva chiamarla col suo nome, sentendone non so che vergogna, e vi era nei suoi occhi un che di amaro, di supplichevole. «Perché menti continuamente? Perché?» E si fermò, e non gli riusciva di andare avanti, perché la domanda che aveva formulato nella sua mente era «Perché ti comporti come un demonio?» Ma qualcosa, una tristezza appassionata che era in lui, gli impediva di dare il via a questo lamento filosofico, che del resto non si presentò mai più. E tacque. E vedendo che il mare entro la finestra sembrava ancora più muto, soggiunse debolmente: «Dimmi, verresti con me?» «Dove, oh signor?» «Il marchese e io ci siamo accordati», mentì per la seconda volta in vita sua il conte, ma non gli doleva, sperando veder sorridere la servetta. «Ti porterò con me oggi alle 2. Non servirai più alcuno, ma sarò io che servirò te, capisci?» E in ciò dire, non sapendo più come andare avanti, tanto per non so che mistero che era in tutto questo, sentì gli occhi riempirglisi di lacrime, abbassò la fronte. Vide in quell'atto come da una profondità infinita la bestia fissarlo, e il suo sguardo era ancora quello intenso e grave, stranito e soave, che aveva scorto la notte nel pollaio. Come se a tutt'altro essa fosse supremamente interessata, ma per orgoglio o un risentimento infantile non potesse mostrarlo. taceva e intanto i suoi occhietti non smettevano di fissare il signore amico ed ecco che disse: «Vado all'inferno». «Come hai detto?» Aleardo non aveva capito. «Dico, vado all'inferno se muoro, o signor». «Né inferno né paradiso», disse il conte con improvvisa freddezza, volendo avviare un discorso sulla sua condizione, «se non hai l'anima». Altro silenzio, in cui Liguana mosse lievemente il collo, come se là avesse male. «Il marchese», disse ella dopo un momento, ma con una voce così fina che sembrava incrinata, sembrava stesse per spezzarsi, «va in paradiso oggi dopo mangiato. Va sulla nave e là, dopo molta acqua, c'è il cielo con la Vergine Santissima e tutte le costellazioni. Là io non posso andare. La Vergine non vuole». «La Vergine? L'America, vuoi dire?» Stava per rispondere con amarezza il conte, ma tacque, vedendo che l'occhio della iguanuccia diventava sempre più strano, e diciamo l'occhio perché era uno solo, quello sinistro. L'altro era abbassato, che si alzava nel bianco con una sorta di terribile intensità. Nello stesso tempo, quella parola «costellazioni», che la bestia non poteva aver letto in nessun luogo, ricordandogli la casuale scoperta della dedica, riaperse nella sua mente quel varco già chiuso e a modo di un lampo illuminò ancora tanta vertiginosa oscurità, lasciandolo di poi al buio, ma con una tristezza più acre. «Per cui chi ti ha detto questo?» chiese dolorosamente, parendogli in quel momento che l'intero mondo della cristianità spezzato precipitasse negli abissi. Ci fu, da parte della creatura, un altro lieve movimento del collo, come se proprio là qualcosa dolesse, per cui, parendogli di avvertire in quel movimento e nello sguardo che sempre rimaneva irreale, qualcosa di non buono, e volendo uscire da tanta incertezza, egli supplicò ancora una risposta. Chi ti ha detto questo, iguanuccia? Ma la creatura non rispose altro che con uno sguardo stupido e dolce, come per essa il formulare o balbettare qualsiasi cosa fosse ormai inutile, e girando sempre il collo, come se il male le desse veramente fastidio, uscì tutta strana, dimenticando lo smeraldo nella spazzatura e la scopa sul pavimento, uscì dalla stanza. Forse essa aveva sentito, col misterioso istinto degli sventurati, l'appressarsi del marchese. Così pensò il conte quando, uscito anch'egli nel corridoio per vedere dove andasse, così stravolta la servettina, scorse sulla scala che portava in biblioteca scendere Don Ilario, con aria stanca ma un dolce sorriso, stringendo tra le mani copia dei poemi. Dietro di lui, nella luce del finestrone, si scorgeva il nero Don Fidenzio, e che i due fossero usciti insieme dalla biblioteca dopo lungo parlare, mai pensando di trovare nel corridoio il conte, fu chiaro a questi dal modo in cui lo striminzito marchese accentuava il suo sorriso, stringendo in pari tempo le labbra già strette, mentre l'arcivescovo, come una nera farfalla trafitta dallo spavento alla vista di una mano che si accosta, cerca di mimetizzarsi col primo luogo che le si offre, aderiva alla vetrata della finestra in maniera curiosa, identificandosi con le altre irrigidite figure di re portoghesi. Ignorando certo ambedue lo stato d'animo del conte, che era lettore di chi ascolta da poco muoversi il mare e altro non può udire. Rimase infatti il conte addossato al muro, guardando il ragazzo che gli si accostava, ma in realtà nulla guardando. Tale era la tristezza della sua mente, e le parole del letterato gli parvero come semplice carta scritta. Come mai alcun serio dialogo fosse avvenuto tra loro, ma solo un banale conversare, così Don Ilario graziosamente disse: «Ciao Daddo, come stai? Io sono scomparso tutta la mattinata, ma il motivo era quello che puoi immaginare. Guarda. E gli presentò, aprendoli a caso affinché se ne scorgessero rapidamente le minute correzioni, i manoscritti di Portugal e Penosa, più una lettera racchiusa in gialla busta che doveva autorizzare il conte a trattare per il giovanetto con l'editore di Milano. Il conte prese i manoscritti automaticamente, mentre un impercettibile tremito gli muoveva la mano, e pregò il marchese di volerli dimenticare per qualche momento, dovendo rivolgergli una preghiera che chiedeva tutta la sua cortese attenzione. La voce, nel dir questo, era un filo, e nel bel volto regnavano oscurità e confusione. Non capisco, fece Ilario osservandolo con curiosità, e parve al conte con un che di freddo, quasi di deluso. Comunque non qui, certamente, nemmeno nel mio studio, che è tutto in disordine, piuttosto nella sala da mangiare. E facendo un lieve cenno d'occhio al prelato, quasi il conte nemmeno esistesse, di volersi allontanare, precede l'ospite nella sala che i fratelli avevano del tutto svuotata.